Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale. Parla come scrivi il numero 32, 20 gennaio 2009, oggi si insedia Obama e noi si parla di Facebook. Sappiamo bene di preciso perché abbiamo troppi monitor di fronte. Comunque noi siamo nel vagonaccio di Parla come scrivi, io sono Strelnik. Accanto a me ho la nutrita, folta e compatta schiera di quelli che formano l'equipaggio più solido di Parla come scrivi. E vado a presentarveli in ordine e in senso antiorario. Voi non lo sapete che è antiorario, ma fidatevi che è così. Alla mia destra... Ma perché devi cominciare dalla tua destra? Perché tutti vanno a destra, tu cominci dalla tua destra. Già, iniziamo male. Si parte male, ma intanto avete sentito la voce di Liv, che invece è alla mia estrema destra. Quindi potrebbe essere anche alla mia sinistra. Accanto a Liv, nel mezzo, coccolato dagli anfratti e dagli scossoni del nostro vagone che pencola tra le varie stazioni d'Italia e anche non, c'è il nostro sociologo numero uno, ovvero sia il nostro... sociologo calzolai. Sentite la voce ora. No, viene. Mi piace essere chiamato così, che poi è il mio anfratto. Calzolai è un anfratto vivente. E stasera parleremo di Facebook e anche delle diverse forme di aggregazione che si assomigliano o che si avvicinano a Facebook, quindi anche del ruolo della rete e quindi anche sul concetto di rete parleremo. Ancora di nuovo collegandoci a un testo molto importante, un testo fondamentale che è uscito poco tempo fa, è un testo di un sociologo toscano, credo, qua che insegna all'Università di Teramo, dal titolo Piccoli mondi organizzativi. Ho letto questo libro con molta attenzione, che tra l'altro questo sociologo, l'autore, che ha un cognome simile al mio, si chiama Carbonai. Sì, Calzolai e Carbonai si somigliano abbastanza. Si somigliano abbastanza. Ha scritto questo libretto su questi mondi che si incontrano. Il titolo del libro è? Piccoli mondi organizzativi, l'uso dei legami come scambio e controllo. In inglese? Vabbè, c'è anche, ancora non c'è le traduzioni, però in inglese potrebbe essere, come dovrebbe essere? Small Organizational Words. E qui accanto a me, intanto, reti e legami, adiacenza 1, come direbbe il sociologo Carbonai. Ho qui con me accanto il sociologo numero 2 del vagonaccio, che è anche chiamato come Sandrini, che è il suo vero cognome, che pregherei di salutare i nostri amici radio web spettatori e anche ovo etero spettatori che sono qui anche in ascolto di lei. Sandrini. Prima di parlare, sappia lei che questa sera, cioè nemmeno Obama ha avuto tutti questi ascoltatori. Quindi, per cortesia. Sì, noi ringraziamo tutti gli ovo web etero e anche otro. Nemmeno Obama. Spettatori, siete veramente tanti, grazie davvero. Sapete, poi vi si manda a casa diverse robine, no? Comunque, lasciateci il vostro indirizzo nell'apposito posto e ci stiamo svenando, maledetti a voi quanti siete. E allora, sì, dunque, il nostro sociologo numero 2, coadiuvato dal sociologo numero 1 e dal suo testo, di questo suo quasi omonimo, stasera affronteremo con loro questo tema di Facebook, questo social network che sembra impestare un po' di ogni cosa, come si dice, no? sta prendendo piede, sta interstiziando, come direbbe il mio amico bravo uomo, tutti i meandri della rete, no? E tutti i meandri, no, comunque buona parte delle persone che hanno un collegamento veloce si fanno questo account su Facebook, tranne una persona che adesso è proprio qui nel vagonaccio, che è il nostro sociologo numero 2. Però, sociologo però prima di entrare nel vivo della puntata, visto che parliamo di social network, come entrare in contatto col nostro social network, sì, cioè esatto, con esatto. Radio Catrame 19. Sono tantissimi modi. Modo numero 1, entrate in chat su www.catrame19.it. Modo numero 2, su Skype con l'account radiocatrame19.it, oppure la mail. C'è la mail, andate su, sempre sul sito, lo trovate e scrivete. Oppure basta, avete due modi. Sì, no, ci sono avete due modi. E già i nostri ascoltatori fanno i primi commenti. Stasera sono cattivissimi. cattivissimi. Cazzolai, sei un cialtrone. C'è un cialtrone. Il primo nostro commento da non so chi, non sappiamo chi è questo tizio. Non come so. No? Sta scritto lì. Ma lo sappiamo chi è. È il nostro radio catramato. Bravissimo quest'uomo, veramente un bravo uomo. Un bravo uomo, ma guarda lei. Salutiamo il nostro Arsenio Bravo Uomo, testè evocato quando parlavamo degli interstizi. E allora diciamo che per aprire un po' questa puntata, Hans mi fa segnali stranissimi. Sì, ho capito, Hans. Ritornando a Facebook, dovete sapere che anche il nostro Hans, che qui da noi non ha diritto di parola, si è aperto un account su Facebook, quindi anche lui adesso è presente su questo software del faccia libro che sembra stia coinvolgendo tra le sue spire parecchie migliaia, milioni di persone, 5 milioni quasi in Italia, 40 milioni negli Stati Uniti, molti di più in 6 milioni in Spagna, le cifre adesso siamo su quest'ordine, sappiate che insomma il fenomeno sembra esistere, è un fenomeno, a che cosa serve? Ce l'avete, non ce l'avete? Vi stavo dicendo prima del nostro sociologo numero 2, perché potremmo impostare anche un po' la puntata nel vedere perché qualcuno non, che comunque con la rete ha a che fare per passione, lavoro, hobby o quello che vuoi, comunque non sente il bisogno di aprirsi questo famoso account. Sociologicamente potrebbe essere importante scoprirlo, chissà. Comunque poi intrecceremo anche questo mondo di Facebook con i piccoli mondi organizzativi del sociologo Calzolai. Ho dimenticato la nostra mail, sì, principale. Esatto, la mail principale. Che è fare con la che mezzo @rai.it. Potete, sì, sempre mandare tutte le nostre email, le vostre domande su Radio Catrame 19 a fare con la che mezzo @rai.it e continuare anche per la terza stagione di Parla come scrivi con il famoso concorso che è creato dal nostro sociologo Calzolai, il concorso delle parole che finiscono con Uzzo. Sì, esatto. Sì, questo ormai è diventato una delle ultime mail. Cosa diceva Calzolai? La parola più bella. No, c'era Merluzzo. No, poi? Poi mi sembra già detta anche nella seconda stagione. Calcestruzzo. Anche nella seconda. Non sono stati bravissimi, no. Poi c'era Pupazzo. No, Pupazzo! Pupazzo! Vabbè, ragazzi, chiudiamola qui. Comunque, sì, no, è stato bello. Puzzo. Oppure anche se ci si possono costruire. Struzzo. Coniugare dei verbi. Per esempio, okay. Rimbuzzarsi è la prima persona singolare, fa io mi rimbuzzo. Sì. Sì. Riflessivo, comunque sono Santuzzo dicono dalla nostra chat. Santuzzo, sì. E sono belle cose. Comunque, sì, comunque scrivete un gioco tutte molto divertente. Fare chiocciola, fare con l'h e mezzo @rai.it, che ce le girano tutte. Esatto. Allora, io direi per entrare anche nella puntata, oggi era anche il giorno di uno che se ne andava, il presidente degli Stati Uniti che se ne andava, e dell'arrivo del nuovo. Yes, oggi ha giurato Obama. Yes. Ah, si è insediato alla Gazza Bianca, anzi alla Casa Bianca, e alla White House. E ci starà il wifi alla White House, certamente. E ma sai con i controlli magari, comunque noi dovevamo salutarlo in qualche maniera, il nostro presidente Bush che se ne va in qualche modo, e non abbiamo trovato che di meglio che di un estratto, una piccola frase da una nostra possibile guida spirituale seguita da una canzone. Noi ve le mettiamo in fila, anzi Hans ci farà il piacere di, almeno per una volta, azzeccare questo, come si dice, questa miscela di citazione più canzone, e vediamo se il nostro Hans, oltre a farsi gli account su Facebook, riesce ancora a fare anche il tecnico del suono. Vai Hans! Pronti. Presidente Bush, io solo una cosa voglio dire. Tu hai fastidio. Pronti. Presidente Bush, io solo una cosa voglio dire. Tu hai fasulli e bucchini. E questo è il blues delle nostre parti, questo è il blues suonato in tre quarti, che suonavano i nostri nonni prima che arrivassero gli americani. E questo è il blues dei nostri braccianti, non erano negri ma erano bianchi, che cantavano nei nostri campi prima che arrivassero gli americani. Caramelle, noccioline, bombe a mano America. Caramelle, noccioline, bombe a mano America. Ballare, questo è un blues da dimenticare, con le foto dei nostri nonni che salutano tutti gli americani. Caramelle, noccioline, bombe a mano America. Caramelle, noccioline, poi la bomba atomica. Radio Catrame 19. Mi fanno dei segni. Siamo tornati adesso all'interno del vagonaggio. Avete ascoltato la citazione da Gianfranco Marziano, un suo video che circola su YouTube e che si chiama, una piccola serie intitolata Il Talebano. E poi avete sentito una canzone che si chiama Blues in tre quarti del livornese Bobo Rondelli. Chi non lo conosce se lo va a cercare. E adesso torniamo al nostro... Allora, vedo che la chat intanto si sta animando, loro scrivono, però io dalla mia postazione non riesco a vedere niente, per cui ho tre quarti del vagonaccio che guardano la chat e io mi ritrovo con Hans che mi fa i segnali come per dire ragazzi, manca 5 secondi, 4, e loro stanno lì comunque. Si vede che è una chat molto viva, noi sì, ringraziamo sì, Yovo sì. Web spettatori perché comunque sono uno. Sempre... si può fare, lo fanno in tutti i programmi quelli del pomeriggio. Sì. Si può salutare l'amico a casa che oggi è il compleanno? Sì. Siamo una free form. È l'amico di tutta Radio Catrani. Lo fanno anche al gioco dei pacchi. Lo possiamo fare anche noi. Tanti auguri al nostro Risma! Grande. Risma. Sì, dopo passiamo anche una cosina, una cosa musicale che ci ha preparato il nostro Hans, che Piero l'ha fatto amico, come si dice Piero su Facebook. L'ha fatto, sì. Mi fai amico su Facebook? Sì. E questo l'ha fatto. Allora, iniziamo a prendere i redini della puntata. Sì. Scopo di questa puntata è, questo è un reality questa sera. Sì. Se entro un'ora noi riusciremo a convincere il sociologo numero 2 ad attivarsi un bel account su Facebook, saremo tutti contenti. Altrimenti, se questo non accade, saremo tutti quanti autorizzati, noi di Radio Catrame e tutti gli OVO web aspettatori. Stasera sono un po' dislessica. Sì, ascoltatori. Provvisorio. Coloro che aspettano. Ascoltatori, anche spettatori, potremo scrivere un po' su Facebook con la seguente frase: il sociologo numero 2 è una merda. Quindi da domani Sandrini domani sarà sulla prima pagina di Repubblica, su Facebook scoppia la frase, quindi c'è la caccia all'uomo e ritrova chi è sociologo numero 2 e perché è una merda, succede un finimondo. Quindi o ti attivi l'account sociologo, oppure fai un caso sociale. Allora intanto diamogli la parola, faccia libro, facciamo una breve introduzione e poi diamo la parola. Faccia libro, al secolo Facebook, compie 5 anni fra poco, è nato il 4 febbraio del 2004 da Mark Zuckerberg. Che studiava, aveva 19 anni, quindi se nel 2004 aveva 19 anni, c'era 24 anni, un pischellino, che studiava ad Harvard. Cosa voleva fare? In pratica all'inizio non era nient'altro, voleva mantenere i contatti con gli studenti, quelli di Harvard e quelli anche dei licei, e quindi ha fatto questa cosina che man mano si è estesa anche a questa applicazione web. Yes, questa cosina da smanettoni interna ad Harvard, che poi invece è andata a finire anche al MIT, all'Università di Boston, al College di Boston e via. Questo via si è esteso in pratica in, non dico tutto il mondo, ma quasi. Sì, quindi a un certo punto ci deve essere stato qualcuno che gli ha dato quattrini per fare questa cosa, perché sennò non torna, cioè qualcuno i soldi per andare fuori e anche averci le strutture per reggere una cosa mondiale ci deve essere stata. Ora dentro Harvard mi immagino che non è che frequentava Beppe Cecco, quindi qualche qualcosa di trovare Duvaini ce l'ha avuti, insomma. Parlando anche con suoi colleghi di studio, non è che il suo babbo, i colleghi di studio e babbi e le mamme andavano a lavorare. Allora ti spiego il babbo e la mamma maledetta loro. Il babbo e la mamma di Zuckerberg che facevano? Allora, il sito è gratuito, lo sappiamo, cioè non si paga per entrare su Facebook. Però chi trae guadagno, cioè il ragazzino Mark, è dalla pubblicità, dai banner. Uh-huh. Alcuni rumors del 2006 dice che questi 2-3 anni fa guadagnava qualcosa tipo $1.5 million statunitensi a settimana. Tre anni fa, adesso non lo vogliamo sapere, se no tutti quanti in massa ci cancelliamo da Facebook per protesta. Comunque lui ci fa un pacco di soldi, sì, quindi con la pubblicità che è assolutamente targetizzata, tipo se a me piace il sociologo numero 1 e numero 2, nella pubblicità mi diranno: perché non ti compri stasera niente un bel libro di sociologia? Hai capito? Perché loro guardano i miei allora, gusti. Infatti, allora, se quando Facebook viene a guardare a me, cosa rara vede, da trovare, e vede la mia lista di amici e vede amici di questo genere, cosa può pensare? Cosa mi consiglia, avendo amico calzolaio e Strelnik, Facebook? Quel libro di cui dicevo prima, questo libro dal titolo Piccoli modi organizzativi, che parla della rete. E la rete, caro il nostro Sandrini, che cosa pensa lei della rete? Come ci si trova dentro questa rete? Buonasera a tutti. Ecco, e questa è un'entrata trionfale. Sì, devo dire che mi mette un po' in imbarazzo questa trasmissione. Anche a noi questo spesso ci succede. Mi mette un po' in imbarazzo e mi sento un po' sotto scacco. Perché la minaccia, l'anatema lanciato da Liv è piuttosto sgradevole. Se non fosse che... Quando il Sandrini si incazza, si no, incazza. Ma che? Se non fosse che, essendo che a me di Facebook non me ne frega niente, cioè, sostanzialmente ci potete scrivere quel che vi pare. Anche come rappresaglia. Se anche che, come rappresaglia, cioè potete farci quel che volete. Questo è un po'... Io sono stato trascinato in questa puntata a parlare a parlare male o bene di una cosa che sostanzialmente veramente non mi interessa. Vai, io ho capito. Cioè, Sandrini stasera fa come l'annunziata da Santoro. Cioè, non va bene questo modo. No, Calzolai, tu hai capito male. Sei la nuova annunziata. No, Calzolai, tu hai capito male. Sei tu che corri il rischio di fare... L'annunziata da Santoro. Ecco, l'annunziata da Santoro. Scusate, ma... Allora, facciamo una cosa. Lasciatsi, come vedo che sta apparendo animato. Sì, facciamo interagire i nostri Ovo Web spettatori, come facciamo sempre. A volte facciamo collegamenti audio. Allora, oggi lo facciamo più dalla c'è chat. C'è qualche nostro teleradio spettatore sta dicendo delle cose intimissime. Intimissime. Intimissime sul calzolaio, quasi irripetibili. No, okay. Quindi violiamo la privacy. Non si può dire. Va bene. Non si può dire, perché Brav'uomo è sceso veramente nell'intimità dell'intimità dell'intimità della vita inesistente intimamente di Calzolaio. Va bene, comunque andiamo. Anche questa parte di intromissione nella privacy può essere una delle cose che Facebook può, diciamo così, violare in qualche maniera, può attaccare. Perché? Perché quando, per esempio, voi mettete delle fotografie o del materiale sopra Facebook, materiale vostro, diventano di Facebook, la proprietà diventa di Facebook e può utilizzarle come gli pare. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No. Secondo me Facebook, se viola qualcosa, non è la privacy delle persone che stanno dentro. Viola il tempo di quelli che stanno fuori. Perché come a me stasera, sono costretti a discutere di sta minchiata. Cambiamo argomento. No, è un argomento serissimo, perché da una parte le persone perdono tempo su Facebook, e queste sono liberissime di farlo, ma costringere il prossimo a leggere una serie di articoli, pure sull'internazionale, sui siti internet, di mega commenti, su questo, porta via tempo. Il tempo è poco, ragazzi. Sì. Godetevelo intanto che ce l'avete. Lasciate perdere Facebook. Gli imperatori romani tenevano uno schiavo apposta che gli ricordava per tutto il giorno, o anche dopo le vittorie, più i trionfi più grossi. Ricordati, il tempo è poco, che devi morire. Ricordati, sei soltanto un uomo. E questo potrebbe essere un memento all'incontrario. Esatto. Noi accogliamo questa, però ti faccio vedere un secondo, ti faccio sentire, leggo così sentano anche i nostri Ovo Web spettatori, mai così numerosi come questa sera, vero? Io sono sto Enz di là già che lì che firma segni. Vabbè, Enz, aspettiamo, perché voi sapete che se noi arriviamo a 500.000 spettatori ci comprano e noi si smette di lavorare, quindi siamo a posto con tutti. Ce ne manca ancora un po', però ci si sta lavorando, ma roba di due. Tre, roba di pochi, proprio tutte testerie che non vogliano. E allora ti volevo far sentire questa cosa qua, che forse potrebbe trovarci su Facebook, potrebbe avere un fondo di verità. Ora chiedo una cosa abbastanza grossa, Enz, visto le condizioni fisiche e mentali in cui si trova stasera, di mettermi una musica sotto, quella che si era preparato anche oggi pomeriggio. Enz me l'ha trovato e si chiama Minuetto per a Isabella Rossellini, fatta da Sprut. Che succede? No. Ridendo, cercando delle cose su internet, però non possiamo. Scusate un secondo, qui ci vuole una canzone, perché qui siamo messi proprio così. Proiettili buoni, la cantano i Proiettili Buoni. Qui è scoppiata la rivoluzione dentro lo studio. Scusate, ma devo chiudere. Enz, mandaci una canzone, cazzo, che è un casino. gente che canta, che gioca, siamo intelligenza da sparo, pronti attenti, mirare fuoco, a salve io ti sparo, proiettili buoni, sparo in aria, si alzano in volo, e ti colpisco, ti ferisco, ma non ti offendo, a salve io ti sparo, proiettili buoni, buoni. Coperna, con parole, con il mento pronunciato, il che vuol dire che c'è da stare attenti, siamo intelligenza da sparo, pronti attenti, mirare fuoco, a salve io ti sparo, proiettili buoni, sparo in aria, si alzano in volo, e ti colpisco e ti ferisco, ma non ti offendo. A salve io ti sparo, proiettili buoni, buoni. Ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. They think you really can't see us. Nah, ha tentato di rimorchiarti con una mail. Ma dai, ma non ci credo, ma che squallore. Nah, ha tentato di rimorchiarti con un SMS. Ma dai, non ci credo, ma che squallore. Nah, ha tentato di rimorchiarti con un commento al blog. Ma dai, ma non ci credo. Ma che squallore. Nah, ha tentato di rimorchiarti via Facebook. Ma dai, ma non ci credo. Ma che squallore. Nah, ha tentato di rimorchiarti con il connettore telepatico quantico. Ma dai, ma non ci credo. Ma che squallore. All the rest of my life for you. Insomma, allora, tutto questo per dire al nostro sociologo numero 2, che prima faceva giustamente i suoi appunti sul diritto a fregarsene quanto di me di più si vuole di questo social network che tiene impegolati fra loro milioni di persone in tutto il mondo, e uno dei possibili, diciamo così, motivi, dei motivi più stringenti per cui uno può farsi un account di Facebook, così come anni fa mandavo un SMS o una mail, un commento, è la sana tromba, cioè rimediare una privata. È questo uno dei motivi, questo lo giustificherebbe. Questo è l'unico motivo per cui vale la pena farsi un account su Facebook e qualsiasi altro tipo di comunicazione. Ecco. E qui appunto ci va. Tutti gli altri motivi sono seghe. Sono seghe. Cioè, dove non c'è la dopa, ci sono le seghe. E c'è. Ci s'aveva un gancio con la Gesellschaft. Che però ci è venuto. Comunque, c'è una stroncata. No, no, è vero. Comunque, questa cosa qui si è fatta apposta per proprio per riparlare proprio terra di questo, di sì, questo fenomeno, no? Questa cosa per cui sembra strano, ma appunto il numero di prima di commentatori che ci aveva, adesso parlo della rete, di come il blog e la popolarità, no? E l'avercelo più lungo, per tornare all'argomento testé evocato, quello del sesso, quindi quanti più contatti c'hai, quanti più commenti c'hai, più ganzo sei e più forte, o ganza naturalmente sei, o quanti più amici c'hai, e allora lì a quel punto lì tu cerchi gli amici, tu cerchi i commenti, e va a puttane tutto il discorso di questo, come diceva prima lì, va a cena, di questo database, no? Emozionale anche un po', che è un database di amicizie, di perché può però, servire, può servire. Però, cosa può verificarsi? Può verificarsi, questa cosa, ma dato mi scusi, questo. Prego, a lei. Può verificarsi questa cosa, che da tutti gli amici che accetti nel bailam di dire sì, accetto un amico perché sono arrivato a 145. Saltano fuori anche le fetenzie. No, una volta su Facebook, come diceva prima lì prima, la pubblicità è molto targetizzata, per cui sulla colonnina destra c'hai la pubblicità mirata per te. Allora sa fanno questi furbastri del marketing di Facebook, ti scrivono, a me mi è apparso, ti faccio il caso concreto, la fotografia di Bossi con scritto una breve biografia e poi fan club, gruppo di Bossi, e sottoscritto un amico, un tuo amico è fan. Sono andato a vedere, perché di solito si può vedere chi è l'amico fan, e quel link lì non funzionava, cioè non mi faceva vedere il mio amico che era fan. Allora comincio anche invece su altri, a volte mi è venuto, se volevo iscrivermi a Vinicio Capossela, perché c'era qualcuno che era iscritto a Vinicio Capossela, invece quello lì lo potevo vedere. Allora cosa fanno loro? Dicono, se questo qui pensa che fra tutti i suoi amici c'è anche qualcuno della Lega, no? Io me lo rivendo bene questa cosa qui della Lega, perché questo è portato a pensare così, che comunque la Lega è cioè qualcosa che è molto vicina a lui, perché tra i suoi amici che c'ha c'è anche, e quindi l'immagine che ha della Lega nei suoi confronti ne ha qui, cioè sono discorsi molto bastardi. Sì, sono discorsi molto molto complicati e intrecciati. Che tra l'altro assomigliano molto a... assomigliano, secondo me sono nati dal modo di fare pubblicità dei link sponsorizzati di Google, che sono questa pubblicità contestuale, eccetera. Però il nucleo della questione, secondo me, non sta lì. Questi sono dettagli tecnici interni alla questione di Facebook. Il nucleo della questione, ed è uno dei motivi per cui io continuo ad alimentare e a nutrire questo mio disinteresse per questa e in generale le comunità virtuali un po' chiuse, è che il problema non è di Facebook, non è neanche delle comunità virtuali, il problema è, e mi piacerebbe sentire l'opinione del sociologo e dei sociologi numero uno e dei socializzati, il problema è delle persone che non si parlano più, fanno fatica ad incontrarsi e che, secondo me, perdono un sacco di tempo inseguendo l'ultimo dei miti presentati. Quest'anno c'è questa cosa di Facebook, l'anno scorso in un altro spazio, in un'altra dimensione c'era questa storia di Second Life, l'anno prima c'era la pugnetta che si chiamava in un altro modo, tra un anno ce ne sarà un'altra. Ma il problema è la... Il problema sono i rapporti tra le persone che sono sempre più assuefatti, che sono sempre di meno e di una intensità sempre più labile. Dopodiché, alla fine, ci si rinchiude la sera dopo cena, dopo una cena che generalmente non è quella di questa sera, con la ricetta che mi piacerebbe che Liv postasse, anziché con gli insulti al sottoscritto, sul suo cavolo di gruppo di Facebook, perché meriterebbe di essere divulgata. Io non riesco neanche a ridire il nome, perché non essendo indigeno, e la ricetta essendo indigena, però vi garantisco che non era una ricetta virtuale, il gruppo non era virtuale perché erano quattro persone. Dalla chat ti rispondono. Quattro persone, sì, che si conoscono, certo, da 5 anni e mezzo almeno, qualcuno quasi 7. Cioè, l'altro elemento su cui ragionavo oggi pomeriggio mentre mi preparavo un po' ansioso a questa puntata, è questa storia non tanto di Facebook, ma di Facebook perché ha tanto successo e quindi diventa, se volete, la concretizzazione di un modello di comunità virtuale spesso inseguita, raramente realizzata dai teorici, è che, non mi ricordo più, ve lo dico. Va bene, c'era una cosa dalla chat? Dalla chat. Allora, innanzitutto bisogna dire che Bravo Uomo è un mito, perché ha spiegato in un modo fantastico a tale Azzorre come si fa ad ascoltare Radio Catrame, e devo dire che Arsenio, Bravo Uomo, è stato l'unico che è forte, Arsenio, solo lui, gran signore degli apostrofi, anche del codice, sì. Codice Poetry, dicono, WordPress. È tutto legato, è veramente poesia, un genio. Codice, come, vabbè, fine. A parte questo ringraziamento a ti si vuol bene, Arsenio, moltissimo a te e a tutti il resto. Ci dice One, guarda, c'è gente però che è fissata con i social ed è iscritta a decine di social contemporaneamente. Mm-hmm. E infatti anche Giulia è d'accordo con il nostro sociologo e dice che sono quelle le persone che poi hanno tempo da perdere. Esatto. Però... Quindi dalla nostra chat si desume che tutti quelli che sono iscritti sui social network hanno tempo da perdere. Certamente. Eh sì, perché c'è una cosa, però spezziamo anche una lancia a favore. È vero che c'è una virtualità, è un rapporto anche interpersonale di, uso un termine improprio, di seconda categoria, diciamo così, indiretto, labile, spezzabile in qualsiasi momento. È un broker uno pseudo broker sociale, cioè un mezzo molto etereo, no? Però c'è anche questa parte di self-sharing, cioè di mettere in condivisione alcune parti di sé. E quindi c'è una parte di sincerità. La cosa che dicevi te prima, che è proprietario, che è un mondo chiuso, questo a me non va bene. È vero, i rapporti virtuali sono sempre molto di pugnetta, di sega mentale, perché... No, ma al di là del però il fatto che sia anche di un proprietario solo, cioè che tutte queste informazioni poi invece di essere sparse su vari server o nella... No, ma ci sono... Questo è un altro filone, uh-huh, che è importante. Ma uno, quello che mi ero dimenticato prima, perché l'ora comincia a essere tarda, gli anni cominciano a essere tanti, per cui insomma ogni tanto i neuroni fanno cilecca. Ma l'altro filone che mi dimenticavo prima per arrivare a quello che stai dicendo tu adesso, cioè quello dell'unico proprietario, l'altro filo da seguire per capire questi processi, secondo me, è quello del tempo collegato alle relazioni. Allora, noi oggi, questa sera, siamo stati a cena e non ho detto prima, non ho citato prima per caso il fatto che ci conosciamo da anni. Il tempo è la dimensione che è mistificata dalle comunità virtuali in generale. Perché? Perché le relazioni tra le persone, quello che in questa società manca di più, hanno bisogno di tempo. Hanno bisogno di tempo per consolidarsi, per ispessirsi, per non essere buttate via con un colpo di click. Quello che questo cavolo, le comunità virtuali, e secondo me in particolare Facebook, fanno è proprio quello di velocizzare moltissimo la possibilità di o costruire relazioni nuove o recuperare relazioni vecchie con gente di cui magari ci se ne fregava 20 anni fa e non ci se ne frega più niente. Se sto diventando noioso, cancellatemi. No, va avanti, andava benissimo. Io non ho problemi. No, a me quello che mi interessa è la storia di Radio Catrame. Era c'era prima, non era Radio Catrame. Ma scusa, stavi facendo un ragionamento straordinario. Beh, sì, non finiscilo. Ma perché lo dovrei finire? Ma dai, ci lasci la sospensione. E così vi lascio la libertà di finirvelo da voi. E signori. Allora, facciamo. E comunque, per finire, la questione del tempo è collegata a quella del controllo che dicevi tu prima. Perché il controllo è evidentemente un controllo legato. Per fare il controllo si esercita per due motivi. O perché uno è paranoico, o perché uno ha un fine economico. A volte possono anche essere intrecciati, certo, dei motivi, certo. Per cui o ci si fa i soldi con Facebook oppure qualcuno vuole controllare tutti, cioè, cavoli di chi ci sta dentro, certo. Ok, nel frattempo la nostra chat è sempre più bella. Io sono d'accordo con Brav'uomo e mi duole, sociologo numero 2, però dice cosa ha detto Brav'uomo. Dice Brav'uomo: non è tempo perso, ma è un tempo di relazione. Quindi i tempi di relazione, il momento in cui tu ti relazioni con una persona in qualsiasi modo a questo punto concedivi anche con qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione, non è mai tempo perso. Quindi io sposo. Bello, siamo un bel punto sul tempo, una cosa mi interessa da morire. Sì, andiamo avanti. Sempre sul tempo. Anche Giulia dice che comunque lei è per Facebook e quelli che snobbano Facebook sono snob. Piati questo. No, ma l'ammette Mao. Ma io sono snob, sì. E quindi. No, ma mi sto mi sto entusiasmando perché sono anch'io nel gruppo di pro Facebook. Brav'uomo dice anche un'altra cosa importante: che la novità più grossa di Facebook è che non si usano i nickname, ma vai direttamente col tuo nome. Anche questo non è affatto male. E infatti, scusa se ti interrompo a questo proposito. Infatti, la cosa divertente del non usare i nickname è che io, pur non avendo un profilo su Facebook, mi sono fatto la mia ricerchina e c'è una persona che si chiama esattamente col mio nome e cognome su Facebook, per cui che cazzo vuole dire questa storia del nickname? Cioè, è virtuale tante quanto tutte le altre comunità virtuali. Poi abbiamo il Brunetta di Facebook, Azzorre, che dice: lui, io non odio nulla, ma secondo lui sono bravissimi su Facebook quelli che hanno tempo da perdere, cioè gli studenti e i dipendenti pubblici. E anche i dipendenti privati di parecchie aziende, più grandi sono meglio è. Infatti in molte aziende pubbliche e private hanno già da diversi mesi staccato l'accesso a Facebook al lavoro perché dice che ti fa perdere molto tempo. E poi la chat va avanti. Lasciate va avanti, noi siamo un punto buonissimo perché è quello sul tempo, Facebook e tempo, siamo partiti da una quisquiglia che pure fa fare a Mark Zuckerberg un bel quattrinio, un bel l'ammontare di soldi, siamo giunti a una bella parte anche della puntata. Vi lancio una riflessione e poi un po' di musica, sì. Dice Brav'uomo, io ho rincontrato, condivido con lui, molte persone delle scuole elementari, persone che magari non rivedevi da 20 anni. La domanda quindi è, e poi musica, la domanda ma se è uno, la tua, ma se non lo vedevi da, se le rivede, che bisogno c'hai se non li vedevi da 20 anni, forse non ti vedevi un cazzo, esatto. Pensiamo, la domanda è se non li... ma se hai ritrovato un amico tuo delle elementari per 20 anni e te lo sei perso, ci sarà un motivo perché l'hai perso? Qui si va nella filosofia. Comunque non ritorniamo a quelle stati di tanti anni fa, quando avevate 17 anni, ecco, immaginate di avere 17 anni, siete d'estate, avete tutta l'estate a disposizione e vi innamorate di un ragazzino o di una ragazzina. La musica che vi mandiamo adesso distona un po' dai toni, diciamo così, che usiamo qui a Radio Catrame. Loro sono i Canadians, fa molto radio commerciale, ma mi garba anche di molto dirlo. Sono i Canadians e questa è Summer Teenage Girl, scarriata dal loro sito e quindi liberamente trasmittibile. Vai Ants. La chat continua. In a summer place, drinking beer with you, 5 years ago. Friends, I fell down in Altro su Radio Catrame 19. E allora torniamo dopo i Canadians. Qui la chat ferve ancora mentre ci stanno i Milaven in sottofondo, e dobbiamo leggere anche un messaggio che ci è arrivato via Skype, non soltanto dalla chat. Si tratta di Morgana 2390 che ci scrive: ciao a tutti, riguardo a Facebook ritengo che sia un mezzo come un altro, tutto dipende da come si usa. I compagni delle elementari è naturale perderli, perché con gli anni il tempo delle elementari diviene lontanissimo. Recuperarli può essere simpatico, magari dopo 20-25 anni si sono trasformati in persone interessantissime. Poi non è necessario acchiappare tutti gli amici, c'è sempre l'ipotesi, da me molto praticata, di ignorare le richieste. Quindi c'è anche una policy, dice Morgana, no? C'è anche come si usa Facebook. Quindi se uno diventa appunto schiavo del numero dei link, delle request, come cazzo si dice, di amicizia che riceve, e se le accetta, o se invece ogni tanto dice: ma chi sei? Perché io ora devo diventare appunto ipertestualmente amico? tuo amico. Infatti, Julie, la nostra cara Julie, ha un suo metodo. Lei suggerisce di accettare solo persone che si sono viste o frequentate per un po', solo quelle. Lei personalmente dice di non accettare degli sconosciuti, anche perché poi c'è una difficoltà anche che è quella di riuscire ad adeguare il tipo di messaggio, anche stupido, che vuoi lasciare su Facebook ad un pubblico così vasto. Certo. Ma Giulio, oltre a dire queste cose molto serie, dice delle cose, delle grandissime verità. Io gli voglio tanto bene a Giulio, anche perché è l'unica donna, cioè parlo in mezzo a questo maschiume che mi capisce bene. La cosa maschiume? Bella, maschiume? La cosa bella di ormai il nostro pubblico sono gli amici delle scuole elementari è rivedere se il primo amore è brutto e ingrassato, fa piacere. Cioè, questa è la verità. Se ti rivedi la fotina di quello che era il tuo amico, il tuo primo amore all'elementare, ed è diventato un tarpone pelato, cioè sei contenta in fondo. Ma io ho rivisto una mia ex, era una fiesa, ce l'ha. Sì, quando rivedi un ex che è una figona, magari vedi solo lavoro al posto pazzesco, baffeta, cioè non ti rodi un po' il culo, sociologo? Sì, mi vero di culo. No, soprattutto perché cioè, nella foto di Facebook era una strafiesa c'era, però... Ah, oh, perché prima era brutta, cioè è diventata bella. No, era discreto cioè, anche prima, però insomma, non si vede più, la si è untata soltanto con un poke. Oh, che cos'è più. Il poke? Io non l'ho mai capito. Nemmeno io, l'ho citato, ma non l'ho mai usato. Ho capito io che cos'è, una cosa terribile, per cui mi verrebbe da chiudere l'account di Facebook ora. È l'equivalente del suo cellulare dello squillino. Sì. Il poke è lo squillino. Cioè, ti mando una cazzatina che ti accende un iperlink che ti dice che ti ho acceso l'iperlink. Per nessun altro motivo, per dirti, sai che esisto? Ma questa bramosia di rimanere registrati, esatto. L'uomo è un essere che manca a se stesso, diceva... Agamben, ma qui si va nel casino. Se no. A me piacerebbe fare un test. Il test del fruttivendolo. Vai. A me piacerebbe che. Aspetta, parla più test vicino. Test del fruttivendolo. Ci dice Enz che tu parli più vicino microfono. No, sì. Dicevo, il test del fruttivendolo. Il test del fruttivendolo funziona così. Se tutte queste persone che hanno l'account su Facebook e che passano molto un po' di tempo a fare il POC di là, il SEG di qua, insomma, tutte queste cose. Tutti sono non, così. Non tutti, come ci diceva Morgana, c'è anche un altro uso. C'è mezzo e mezzo, certamente. Però comunque prendiamoli tutti e facciamogli il test del fruttivendolo. Il test del fruttivendolo significa andare a comprare la verdura, comprare l'insalata, sì. E prendere in considerazione l'ipotesi di aprire il proprio mondo al mondo del fruttivendolo. Cominciare a guardarsi negli occhi, a parlarsi, a fare quello che si fa con questa naturalezza e quasi senza ostacoli, e senza ostacoli in questa storia di Facebook. A quel punto cosa succede? Succede che, secondo la mia... Però diciamo una cosa, ti garba il fruttivendolo, dai! Ti sei innamorato del fruttivendolo? No, io vado solo in frutta e verdura dove c'è una fruttivendola... È diventata una fruttivendola ora. Però al di là di questo, il punto è che le comunità virtuali riducono, abbattono le difficoltà di comunicazione. Sì. Perché è difficile guardare negli occhi una persona che ti sta vendendo la banana, certo. E provare ad andare oltre la banana. Ma se ti cedi veramente, cioè banana, fruttivendolo, ma che c'è? No. Si stava già eccitando sul logo numero uno. No, o comunque uno può scoprire guardando nelle palle degli occhi il proprio fruttivendolo, che si guarda e dice fruttivendolo, ma io e te... Ma che cazzo si deve dire? No? Come diceva giustamente dice per l'aborigeno. Giustamente dice Giuli, ma le difficoltà di comunicazione ce le avrai te. Cioè, lei col fruttivendolo suo ci qui fa delle chiacchiere che tende. Sì, il clima si scalda, si scalda. Io farei anche un bel collegamento skypofonico adesso con Sandrini. Ci dice che esiste solo un tipo di relazione, quella eye to eye. Allora facciamo intervenire il nostro Arsenio Bravuomo, gran signore degli apostoli, sì. Nostro fratello Malcico, da Torino, uno dei fondatori di Radio Catrame 19, che torna in diretta nei vagonacci nostri, anzi nel vagonaccio numero 7. Non abbiamo mai detto che numero è il nostro, il vagone è il nostro 3. Sì. Comunque, Arsenio Provomo, che ci sta ascoltando con questo ritardo di 20 secondi, a questo punto qui avrà capito che può chiamarci su Skype, dove appunto abbiamo l'account aperto, e quindi se lui ci chiama in vocale, come si dice, in orale, non orale mi sembra sicuramente dai, orale, banale, orale. In orale, in fetish, eccolo qua, rispondo, metto lo ora ci devi far sentire tutto, e sentiamo il nostro grande Arsenio Provomo. Buonasera Arsenio. Buonasera, voi mi sentite? Benissimo, addio, benissimo. Figa la tecnologia. Com'è? Andrini, tecnologia. Ma guarda che aspetta, dico questa cosa prima che poi ti risponda direttamente Sandrini. Il Sandrini nostro, sociologo nostro, non è un visionista, non è un nemico delle novità, è uno che nella tecnologia comunque ci sta bene, è che l'Italia ha dentro la tecnologia questa sua figura umana, umanesimo direi quasi, no? della tecnologia. Per cui laddove vede che finisce forse il contatto umano, comunque la relazione di amicizia che sia più assomigliante a quella umana, e quindi quella che prescinde da poco il contatto fisico, lui ci vede comunque la perdita di tempo. Io ho sempre visto c'è uno scoop in diretta che aspetta, scrive per la abbiamo... no, ti dico anche ad Arsenio, c'è un altro ascoltatore che dice che tu hai tentato, Sandrini, di diventare amica di Giulio su Skype. Vabbè, è uguale, cioè su Skype la battagli e su Facebook no, sei solo chiacchiere, sei, scusa, se io parlo perché so quello che dico. scusaci Arsenio, volevo solo dire questo. Si parla di preistoria, si parla. Sì, vabbè. Comunque, vai Arsenio. Lo senti. No, ma infatti, no, quello che volevo solo dire a Sandrini, che mi è anche molto simpatico dalla parlata, è questo che io capisco quello che lui vuole dire, però forse dovrebbe provare a mettere nel conto il fatto che esistono diversi tipi di relazioni, nel senso che forse i social network, io odio tutte, cioè odio e non sopporto quelli che usano la parola virtuale quando la applicano alle relazioni su internet, perché non c'è niente di virtuale, e in realtà perché sono sempre le persone che sono ai nodi, ai capi della rete, è chiaro che ci sono delle relazioni eye to eye, come ho scritto prima, ma ci sono anche delle relazioni diverse. Allora, quello che succede tipicamente nei social network è che le persone che si conoscono e fanno amicizia nei social network poi automaticamente si vanno a conoscere di persona. Non a caso io poi Strelnik, per dire, l'ho conosciuto di persona. Per cui in realtà è chiaro che ci sono tante amicizie tra virgolette, ma è chiaro che se tu mi fai amico su Facebook non è che siamo veramente amici, cioè voglio dire, lo uso solo per a volte quella cosa lì per promuovere i libri che uno scrive, no, per esempio, però cioè ci sono diversi tipi di relazioni, e Sandrini, tu che sei un sociologo dovresti andarci a nozze con sta roba. Ma allora, cioè, intanto al massimo mi piacerebbe essere un sociologo, cioè qui si apre un'altra cosa. No, io penso che tu abbia ragione. Penso che tu abbia ragione, penso anche di aver ragione pure io, per cui non so tirare le conclusioni di questa cosa. Mi sto perdendo nella marea della complessità di queste cose che stanno emergendo. Il verbo emergere è un verbo molto sociologico. La nostra Marti ci dice che lei ci si è addirittura sposata con un nodo, con un contatto che ha avuto in una rete. No, però adesso non vorrei tornare a rimestare nel mare del virtuale che diceva anche prima Arsenio, che con dei motivi. Non è questione non è tanto una questione individuale di uno che si sposa con un altro, l'altro che ci prova con quella. Cioè, il punto è, secondo me, che in generale il nostro mondo è un mondo dove si fa fatica a mantenere quel contatto che tu hai chiamato quel contatto di sguardi, e se vuoi, quello che un po' mi dispiace prima di tutto rispetto a me che vivo in questo mondo, è che questi strumenti, Facebook, comunità virtuali, in generale, non dico in particolare, in generale non servono nella massa ad arrivare a quel contatto personale. Secondo me, e magari mi sbaglio, il livello che ha portato te, Strelnik, a conoscere è un livello, poi magari mi sbaglio, cioè non lo so, ma è un livello abbastanza, non voglio dire dividito, abbastanza di minoranza. Cioè, pensa soltanto alle persone che usano, per esempio, Facebook durante l'orario di lavoro. Credo che chiunque di noi conosca questo. Francamente non c'è il tempo di sviluppare una relazione come quella che avete sviluppato voi due estremi, che è una relazione di selezione, di tempi, quello che fa. Perché ci sono troppi contatti, cioè ciascuno ha troppi contatti. Io, se conto gli amici, non quelli di Facebook, ma quelli che ho nella mia vita, faccio fatica ad arrivare, non dico studi di conoscenti, faccio fatica ad arrivare alle persone. In radio non bisogna sovrapporsi. No, ti chiedo scusa. Tu fai l'ipotesi che tu fai sottintesa, che ogni relazione che uno ha sulla rete debba essere per forza una relazione di amicizia importante, profonda, eccetera. Non è vero, no. Non è detto che debba essere per forza così. Se io sono al lavoro, è chiaro che ho dei rapporti veloci, come il messaggino, come che cazzo ne so, come una mail, commento a un blog. Come un commento a un blog. Però non puoi vedere la cosa in maniera puntuale. Se tu allora fai un discorso dilungato nel tempo, io posso sviluppare un'amicizia nel tempo a piccoli spizzichi e bocconi ogni giorno, perché no? Ma e poi non è questo il problema, scusa, cioè io non ho capito effettivamente dov'è che vuoi andare a parare, cioè io non vado a parare da nessuna parte, nel senso che ho dichiarato all'inizio che Facebook non mi interessa e non sono qui per criticarlo, mi ci hanno tirato per i capelli ormai pochissimi queste persone che vanno invitato a cena in questa posizione assolutamente scomoda. Io non critico Facebook, dichiaro che non mi interessa e rivendico il diritto al disinteresse rispetto a Facebook e tutte le altre cose. Sì, però siccome usi anche la rete in altre maniere, vuoi che sia un forum, vuoi che sia una mailing list, vuoi che sia un semplice contatto mail, quindi non sei avulso dal mondo della rete e ti interessano questi meccanismi, perché anche li studi, quindi cioè il fatto che non ti che non provassi, almeno era questa la cosa di fondo per cui provocatoriamente abbiamo provato a metterti, diciamo così, come capo espiatorio, no? Comunque come posizione in questo momento qui contraria, proprio per questo fatto che soltanto per qualche giorno magari uno si apre l'account, vede come funziona anche a livello tecnico e buona lì, ecco, è semplicemente questa cosa. Poi che ti abbiamo dato un compito molto ingrato e ti abbiamo aizzato contro una chat dal celebre uomo che quando si parla di tecnologia e di quello che di umano la salunga e la sa anche raccontare con disposizione, anche uno che ci ravvisa nei mezzi che sembrano neutri, sa piegarli bene per scoprire parti dell'umano che gli interessano. L'esempio che facevi te però riguardava i blog, l'esempio che facevi te di Strelnik e Brav'uomo riguardava il momento dei blog, che rispetto al social network erano un po' diversi, erano più lenti, e questa è la qualità del tempo, la cosa che volevo dire io, ora poi cederò la parola al sociologo Calzolari. La qualità... il blog è lento, Facebook è rock, esatto, grande Marcello. Questa è bravissimo, il nostro vede le parole, sì, vede le parole, e intanto sulla chat tutti inneggiano Sandrini su Facebook, c'è un infatti la cosa poi alla fine nemmeno Obama oggi ha avuto una ola così, cioè allora facciamo outing commerciale, Facebook ci dà 100.000 euro se non si riesce a convincere, cioè, se tu adesso ti fai l'account tempo 3 ore diventi la persona più popolare d'Italia con un pacco di reazioni così e non si sa, beh, diventerai il VIP della rete, tu pensaci e poi fai come ti pare. Noi siamo allora pronti ancora ad andare avanti con l'intervento del sociologo. A questo punto qui direi al nostro Arsenio Bravuomo da Torino, gran fondatore della radio Bituminosa Nostra, se ci vuole aggiungere di qualche cosa che vuole lui a piacere. Volevo solo dire questo, che ho pocato AIDS. No! Allora, ho pocato AIDS e poi volevo dire grazie perché siete sempre... come dire, quelli che tengono viva la radio, Catrami 19, che vi ricordo, è la radio che vi fa più male in assoluto se solo vi provate di fumarla. Grazie. Mi piace questa discussione, scusate se sono veemente a volte, ma Sandrini è molto simpatico, anche se non capisce niente di tecnologia. Scherzo, Sandrini, scherzo, fa per scherzare. Durante questa scena fantastica, perché lui viene solo per la scena, cioè non viene. Visto che la scena è una promessa seria e te lo fa seria, ha utilizzato nella questa scena una bellissima metafora, perché Facebook è come la pesca. La pesca a strascico. A strascico. Che tira su tutto. Quindi di questo gli amici di Facebook sono come la testa a traccio che tira un po' su tutto. Sì, sì, sì. Ma quello che diceva anche... Sì, però, Sandrini, però poi tu ti mangi solo i pesci che vuoi te. Grazie. Voto per Arsenio. Arsenio, mamma mia, bravo. Fatemelo dire. È bello, lo garantisco. Bravo, giovane, c'è anche lui una moglie figlia. C'è a Obama, se non fa, non mi manca niente. È bravo. È bravo. Grazie. Anche perché io ci ho le spalle da paura. Comunque, ragazzi, ma scusate, questa cosa che Skype funziona benissimo. Sì. Cioè, una volta non succedeva. Ah, no? Cioè, vi ricordate i casini, gli echi, le cose? Sì. Ci dice Giulio della chat che forse Bravuomo dovrebbe abbassare un po' il volume di entrata perché un po' forse Arsenio fa i modi di rimbombo ai nostri... Forse parlo troppo forte perché io non ho un feedback della mia voce. Probabilmente sì. E ora c'è una è pazzesco, Giulio, così va bene, Giulio. Con i 20 secondi di ritardo che nel frattempo il mondo potrebbe cadere in questi 20 secondi, vediamo che cosa è. Mettete un pezzo. Allora il nostro Enzo ci ha portato dei pezzi nuovi, proprio nuovissimi direi, e sento anche un rimbombo, però va bene così Enzo, sì, ci pensa tu, anche perché non trovo più quello che Enzo mi aveva preparato, direi che a questo punto qui ci vorrebbe anche... una canzone un po' più rilassata o continuiamo a andare sul allora facciamo che mettiamo questo Dottor Conti, una canzone italiana, abbiamo Bobo Bondelli e il nostro Enzo fonico, ci propone Dottor Conti scovato su web, poi sì il nostro farmaco ci dice che chiudiamo la telefonata, noi lo salutiamo, l'abbracciamo e è morto e ci sentiamo prestissimo Arsenio. Un abbraccio da tutto il Lavanaccio. Ciao! E il nostro Enzo ci mette Agice del Dottor Conti. Vai Enzo. Sulle rive del fiume Adige come un salice ho pianto per te. Sono rimasto senza lacrime nella notte buia, alleluia. Hai saputo che il fiume Adige ha rotto l'argine, sai perché? ha pianto dentro una notte intera, era nera, era buia, alleluia. Ma come facevo a cantare con un peso così sopra il cuore? Riuscivo solo a pensare, la vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella. Del fiume Adige come un salice ho pianto per te, sono rimasto senza lacrime nella notte buia, alleluia. E come facevo a pensare con un peso così sopra il cuore, e riuscivo solo a cantare, la vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è una merda. La vita è bella, la vita è bella. Ho pianto, ma non tanto. Allora, noi entriamo ancora in questa ultima parte di puntata con il nostro sociologo Calzolai che scalpita, perché sì. Il suo discorso sociologico, vero, è... Ci vuole. E dato che iniziamo. Iniziamo dalla musica, che Enzo ci abbassa un po' perché sennò qui ci si muore. Enzo sta su Facebook fisso, cioè poca. Sì, ha mandato un po' che adesso Arsenio ci ha mandato un messaggio. Però Enzo così va anche bene, cioè che tu sia bello interattivo, 2.0 e tutto quello che vuoi, però i sottofondi ce li devi mettere a modo, sennò si ricomincia come l'anno scorso poi. Enzo. Forse l'ha trovato. Facciamo il discorso sociologico. Ci vuole. Siamo al momento del discorso sociologico. Io l'ascoltavo, ero qua, ero interessato. Mi piaceva di più l'intervento di Brav'uomo che non quello del Sandrini, ma va bene, sono sempre opinioni e restano tali. E le reti, lo diceva l'Arsenio, cioè si strutturano tipi di relazioni diverse, sono degli strumenti. E che vengono utilizzati diversamente, però in un sistema che, e forse questa è la parte giusta di Sandrini, che veramente, diciamocela, come diceva Bauman, è sempre più liquido. E questa, nel senso della pisciata. Nel senso della pisciata, nel senso che cioè le relazioni su Facebook comunque sia sono caratterizzate da legami di tipo lasco. Sono legami lasco, mentre invece con il fruttivendolo o comunque sia con il vicino di casa potresti strutturare anche altre relazioni, però è un sistema che sta cambiando notevolmente, cioè negli anni 60 ci si conosceva alle sagre di paese. Vi racconto un esempio. No, dai, fammi finire, no, dai, una volta. Ricordati l'esempio. Non è da ascoltare volentieri, però via, fammi finire. No. E una volta ci si corteggiava nelle sagre del paese, e quello era il piccolo villaggio, e quello era un sistema di relazione, era una forma di socializzazione, e ci si sposa invece conoscendosi in una community, oppure in un sito, in un forum, oppure in una chat, e in questo marasma relazionale le community, Facebook, le chat e così via sono delle piccole istituzioni. Però è anche un sistema che starebbe cambiando, perché le strutture che si modificano sono sempre più velocemente sono quelle della rete, quelle relazionali, in un sistema che, ora non è per fare sociologi, però i sociologi hanno chiamato questo sistema un sistema non solo capitalistico ma turbo capitalistico, quasi a significare un cambiamento di sistema economico nel cambiamento della società, e così è. Perché 60 anni fa, 20 anni fa non ci si conosceva su Facebook, e probabilmente sta cambiando, cioè è un discorso sociologico ed è antiquato. Però ricordo che prima avevamo parlato di qualità del tempo e di lentezza del tempo, questo Sì, ma comunque sia rimane sempre... C'è un uso anche dei mezzi. Certo, ma c'è anche una cultura della socializzazione, sì. C'è un modo diverso di fare relazioni sociali, di rapportarsi con un altro. E vabbè, che Facebook come Messenger o altri personal medium avvicina quelli che prima erano lontani e forse allontana quelli che prima c'erano vicini, può darsi sia anche vero sì, ma in realtà è un sistema che starebbe cambiando, perché se c'è una caratteristica di Facebook è che l'impennata degli iscritti. E quindi, cioè, come lo diceva prima Sandrini, Second Life, le chat, oppure lo ricordava Strenic nelle frasi di prima, che leggeva... Il blog. Del blog sarebbe cambiando, quindi il cambiamento è reale. Cioè, la cosa intelligente da fare, che secondo me non ha detto Sandrini, è come indirizzare questo cambiamento. E perché? Perché su Facebook è vero, sarà triste, però ci sono anche altri siti e migliori, contenuti maggiori, però si è parlato di Palestina e ne se ne è parlato tanto. E qualcuno pubblica un link e qualcun altro fa un commento. E questo strumentino che quantomeno lancia un messaggino in più, secondo me, è chiaro, cioè, per l'amor del cielo, che non è che spesso i contenuti che stanno sulle note o sui blog non sono proprio, non sono tutto, ma ci stanno dei blog che sono compiuti da un punto di vista anche qualitativo, e quindi i mezzi di comunicazione cambiano, sono cambiati e continueranno a cambiare. Lo sforzo, secondo me, nostro e anche il Sandrini potrebbe partecipare, è un po' influenzare questo cambiamento. Cioè, ai fini di che cosa? Facciamo. Ai fini anche di come dire, modificare l'opinione pubblica. Perché un po' lo si può fare. Eh sì, lo si può fare e va bene. No, facciamo, andiamo sulle sentiamo che cosa dice Sandrini. Allora faccio il mimo. Sandrini ha alzato la mano come dire obiezione. No, c'è sempre da dire la cosa di prima, Io faccio io. Inoltre i media, come dice bravo uomo, ma è in linea con questa cosa qua, si stratificano uno sull'altro. Ma la chat continua a essere... La chat continua e bravo uomo ci dice che bisogna stare attenti, ragazzi. A parte Giulia dice giustamente personal medium, che cazzo è? Cioè è un... non esiste questa parola, è bene che... È un plurale irregolare della sì, una tribù... Della quinta generazione, sì, della una tribù Sabina lo usava, è una forma slang del latino, vero? Bravo uomo dice attenzione ragazzi, perché i ragazzini adesso usano MSN come noi usavamo le sagre. Cioè vi sta dicendo le sagre. Cioè ci sta dicendo bravo uomo siamo vecchi. Secondo me. Posso dire un'altra cosa? Sì. Posso rompere questo discorso? Però c'è un'attenzione anche del sociologo. Attenzione, Sandrina. Prego, dopo di lei. No, per dopo. No, volevo cambiare perché altrimenti ci stiamo attaccando a questo giovanilismo. Perché giovanilismo? Infatti dice bravo uomo siete vecchi. No, un altro modo per utilizzare Facebook. Una bella idea viene dalla Nuova Zelanda. È successo, se non sbaglio, 2 giorni fa il primo arresto grazie a Facebook. Ma no, allora no, però allora io spero che la polizia italiana prenda spunto dalla polizia neozelandese. Perché cosa hanno fatto i poliziotti neozelandesi? Questo ragazzino è andato a rubare in un pub, aveva il passamontagna, rubando, cioè non è che ruba la cassaforte, su di un po', si toglie il passamontagna, guarda la telecamera a circuito chiuso, gli fanno la foto, la polizia di Nuova Zelanda, che è molto rapida, mette le foto di questo qui su internet, in 24 ore il popolo di Facebook lo trova e questo qua viene ammanettato. Infamissimi. La polizia ha il tempo di scaricare due fotine al computer, pubblicarle, e si sono risparmiati un lavoro pazzesco, invece di uscire fuori, va a trovare, quindi... Dico io. Controllo. Controllo. Io, no? Allora, i neozelandesi hanno trovato i ladri su Facebook. Se anche noi lo possiamo fare, se la polizia italiana ci dà retta, noi su Facebook, sai quanti ladri ci abbiamo senza che ci mettono la foto? Li troviamo noi. Troviamoli noi. Facciamo anche così, mettiamoci al posto della polizia, ma che dici che stasera tipo 3-4 nomi non li troviamo su Facebook? Diciamo, questo è un ladro, mettetelo dentro. Però ci deve avere le prove per dire una cosa del genere. Ce l'abbiamo le prove, ce l'abbiamo. Se ci sono le prove uno dovrebbe andare da un magistrato e portargli le prove. Ma sì. Questi sono spicci in Nuova Zelanda, via, ti ho visto in televisione, hai fatto la fotina, sei ladro. Ma io in realtà sto tutto facendo sì il garantista, perché il poverino è sto lì, cioè capisco ladri, dici te, ladri lì che rubano miliardi quelli a spa. Ma questo è il poverino che andava, cioè, a tutti i ladri, un ragazzino che doveva chiappare un Facebook, questo cioè, poveraccio. Ha avuto una sfiga, è infamoni sti, cioè che questo non è, cioè, dai, per un ragazzino andava a rubare in un pub, che avrà rubato le birre, no, $100. La cassaforte stava... La cassaforte, casinale. Cioè, era già uno... Cioè, non è... Già, cioè, era già un ragazzino, un capo. Allora, ascoltate, Enzo intanto si è addormentato e ci ha lasciato... No, pieno. Sta a mandare poche a bravo. Sì, no, ma ogni tanto dorme, uno non si capisce bene. Quindi noi abbiamo controllo pieno della cosa. Siamo in dirittura di arrivo qua. Siamo in dirittura d'arrivo perché siamo online, cioè in diretta, online infatti, da 1:22, quindi siamo proprio agli ultimi minuti. Okay. Quindi fra 8 minuti scoprirete di Sandrini apre l'account su Facebook. Mancano 8 minuti, fra 9 minuti potrebbe esserci un nuovo utente su Facebook. Sì, e noi a questo punto qui però mettiamo un'altra canzone, un'altra canzona come si direbbe. E non so Hans che cosa aveva preparato, però mi aveva detto che aveva delle canzoni nuove. Io ne sceglierei una così a caso. La volete italiana o la volete straniera? Italiana. E qui Hans me l'ha lasciata italiana, quindi siamo messi proprio. Vediamo dove ce l'ha un'altra Hans. Allora, americana come il nostro presidente. Allora sì, ce l'ho. Sono i numero 6. Credo siano Paolo Benvenu e Marco Parente che hanno rifatto qualche cosa. Ma guarda Enzo, se ti va a trovare, ragazzi. Ma non la troverà questa roba, Enzo? Loro si chiamano numero 6 e la canzone si chiama Navi stanche di burrasca. Faccio io, Enzo. Penso che memorie facili e morali sono un mix da K.O., saggezza d'epoca, proverbi, doppi sensi, calembur, il sandal poi col male fosse, gli dai ridono di sensazioni di déjà vu, prudenza e astio sono gli araldi della peggio gioventù, bizzarri nazi che reclamano tolleranza e libertà, ricetta di sopravvivenza, simulare in civiltà. Scontati di epiche minori, a volte idee confuse, spesso un po' squadrate, paranoie coltivate ad arte dentro casa, distrutte per equivoco, senza rimpianto, troppo impeto può risultare inopportuno, da queste parti meglio del sempre bassi, sparire muti sullo sfondo questo chiede la tribù. Le navi stanche di burrasca, agli ormeggi proprio come me, le vocazioni allucinate della vecchia guardia narcopana. Mi sono risvegliato tardi per scoprire le mie curiosità. Si conoscono delle persone, c'è cioè una riunione, magari degli atipici, come me. Ci si parla due volte, un gruppo di lavoro, si fa amicizia, ci si scambiano delle mail e poi ci si risente. E poi, alla fine di questa puntata, questo amico sardo, Stefano, mi manda un messaggio. Ci eravamo sentiti su Messenger in questi giorni e finisce di raccontarmi la sua storia. E in un SMS arrivato Aurora, Stefano, dalla Sardegna, mi scrive questo. Quindi pochi minuti fa? Sì. Dopo aver perso il lavoro, sto riniziando da capo. Sono un po' in difficoltà, ma ho fiducia nelle mie possibilità. Per cui, difendiamo quello che siamo, perché è l'unica cosa che nessuno ci può togliere. Buonanotte, amico mio. Nel finale, ai vagoni di coda di questa puntata numero 32 di Parla Come Scrivi, il nostro vagonaccio ha pencolato, ha traballato sui binari di questa puntata. Abbiamo parlato del faccia libro di Facebook, di questo social network, di quello che vuol dire per chi ci sta dentro, per chi ci sta fuori, per come viene usato dal popolo del web. Che espressione brutta, il popolo del web. È proprio venuta male. Enz potrebbe dire una cosa del genere, ma io no, caro Enz, che dormi. E siamo in finale di puntata. I Milaven, così come hanno aperto con The East is Red, con i Zan, chiudono con in sottofondo la nostra puntata numero 32. Ricordiamo, siamo aperto e chiudiamo con Obama, che oggi inaugura l'era della responsabilità e diceva che mio padre 60 anni fa non poteva entrare in un ristorante. E sull'ambiente poi dice: combatteremo il riscaldamento globale. E in tutto questo Bush se ne va. Eh sì. In elicottero. In elicottero. Eh sì. Come da Saigon in fiamme. E alla faccia del riscaldamento globale. Alla faccia del riscaldamento. Noi ce ne andiamo non in elicottero, ma ce ne andiamo nel nostro vagonaccio che è molto più sostenibile, consuma meno, sì, e ha un impatto ambientale pressoché nullo. Sì, sì. E sì, ce ne andiamo nell'ordine. Il vero protagonista della serata, il sociologo numero 2, che a fine presentazione, a fine saluti, ci dirà sì o no. Mi scrivo o non mi scrivo. Il sociologo calzolai numero 1, non solo per ordine, ma per storia, qui dietro a Radio Catrame, per sì, amore e per passione. Ormai mi danno la pensione a Radio Catrame. L'udienza non la vuole anche lui. Noi siamo un'altra volta nelle peste, ci fa 40.000 vertenze sindacali, cioè Enz è bravo, è bravissimo, ma visto questa cosa della pensione, lui ci pensa, è come Bukowski. Beve come le bestie, ma la pensione ci sta. Allora, ti salutano tanto dalla chat, anche Bravo e tutti. Sì, ti salutano tanto, abbracci a calzolai, a Strelli, che invece una sola frase, con tre puntini esclamativi. Strel, scrivi. Scrivo. Con la promessa che Strelick da qui alla prossima trasmissione scriverà almeno come Bart Simpson 30 paginette nel suo quadernino nero, altrimenti giù botte. Ah sì. Vi salutiamo. Sì. E ci saluta anche Julie e Giallo. Vanno salutati questi due ragazzi. Sono. Sì. Anche la Zoria. Giallo, Giallo. Ciao, Giallo. Giallo. E Rose. Chi è Rose? Arrivo. La nostra Roby. Sì, sì. Nostro. Ciao, Roby. Il nostro Risma, tanti auguri ancora, buon auguri compleanno ancora a Risma. Non abbiamo mandato la canzone, ma la possiamo mandare la adesso. La mandiamo a conclusione, la canzone del nostro Risma, che oggi ricordiamo il suo compleanno, tanti auguri. Sì. Salutiamo anche Morgana 2390 che ci aveva mandato un messaggio via Skype. A tutti quelli che stanno ascoltando, quelli i miliardi che ci ascolteranno sul nostro podcast. Su catrame19.it. E adesso la risposta di questa serata. Sociologo Sandrini, nei prossimi 10 minuti lei creerà un account su Facebook, sì o no? Al momento ho dei bisogni più impellenti che mi spingono a rinviare questa decisione. Sto prendendo seriamente in considerazione questa possibilità, ma non credo riuscirò a farlo entro i prossimi 10 minuti. È la sua risposta definitiva? Per questa sera, sì. L'accendiamo? Mamma! No. Allora, Madonna, allora, con questa suspense, Sandrini ci promette che forse da qui la prossima puntata. Sandrini sembri Veltroni, questa è la chiusura peggiore. Questa è la peggiore. Cioè, stitico come Veltroni, ti hanno detto praticamente. In un momento invece in cui tutto il mondo, l'America, è libera a livello intestinale da tutto, tu ti hanno detto che sei stitico come Veltroni, quindi saranno fatti tuoi e vatti a fare adesso una tisana digestiva, te la fo io. Ci sentiamo alla prossima puntata. Sì. Se ci saranno novità, vi manderemo sul nostro gruppo di Facebook la novità di Sandrini, e altrimenti ci sentiamo alla prossima. Sì. Siate fiduciosi, mi raccomando, come le promesse, il sociologo numero 2 è una merda. Chiunque vuole può scrivere su Facebook. Un abbraccio a tutti! Ciao. Michelle Risma l'ha interpretato la canzone di Claudio Lolli. Io getto vai. La cuffia. Gettiamo le sdegnato. Cuffie. Getto la cuffia sdegnato. Vai, Ansi, guarda me torna. Ti ricordi, Michelle le nostre pantaloni. Le tue gambe lunghe e magre forti, e della rabbia che mi dava amore, con tutti i giorni un po' più spente delle mie. Ti ricordi, discende i nostri soldati morti, nella difesa erotta dei bastioni, e se feriti tu assieme con le loro militari, metti i belli, i belli. Ti ricordi, discende il banco. Presidente Bush, io solo una cosa voglio dire. Due fasole e bucchino. Radio Caprame 19, la tua web radio inusuale.